Ok, raga, Raptoons 2009, questo è debutto, che cazzo devo dire? Così fa cagare. Siamo fuori col demo 2009. Ma sì, dici qualche cazzata qua. Però te mica sei preso. Ma sì, ma infatti, giusto, queste cazzate qua. Tanto va bene. No. Le bestemmie. Quanto deve essere lungo? Ma non lo so. Stiamo facendo io l'intro, sai le bestemmie? No. Sì, ma no, ma è meglio di no. Bestemmie no. No, a parte gli scherzi, cioè da non dire minchiate che poi non va bene. Ma sì, boh, tranquillo. Inizia una nuova storia, inizia un nuovo show. Attori e Raptoons, protagonista il loro flow. Quartetto di strada, seguace dell'hip hop. Che ci fa sentire audaci, che ci fa sentire al top. Le rime è il nostro strumento, unito al nostro talento. Per noi il rap è come per la chiesa ogni comandamento. Con questo CD firmiamo il nostro debutto. Per farlo ci abbiamo messo il cuore, abbiamo dato tutto. Ci fa sentire liberi, questa musica ci rappresenta. Non chiede mai nulla in cambio, ma sempre ci accontenta. Ce l'abbiamo nelle vene, dentro di noi. È il nostro passato, il nostro presente, il nostro poi. È il nostro pane quotidiano che ci ha coinvolti, ci ha travolti come fosse un uragano. È una vera e propria passione, non solo un passatempo. È ciò che abbiamo per esprimere quel che sentiamo dentro. Noi siamo motivati, senza timore e spregiudicati, vogliosi di venire fuori e di risultati. Crediamo nelle capacità del gruppo. Incominciamo sto percorso col nome debutto. Street group che di rappare ha una voglia matta, e per questo lo fa sempre spada tratta. Con carta e penna in mano liberiamo la nostra mente. Non ci fotte delle cause se qualcuno ne risente. E per lasciarvi a bocca asciutta, per darvi modo di stare con noi e la nostra fotta. Siamo sulla giusta rotta, incastriamo barre e loop. Raptoons e street group che scotta. Tu non l'avresti mai pensato, quartetto nato per la strada con la forza di chi ci ha creduto. Rappresentiamo, innalziamo con il mic la rabbia e la follia di chi di tutto si è stufato. Noi non ci fermeremo e non ci arrenderemo. Chi ha dei consigli venga avanti, ne discuteremo. È nostro demo, ci abbiamo messo corpo, anima, denaro ed il cuore intero. Noi siamo motivati, senza timore e spregiudicati, vogliosi di venire fuori e di risultati. Crediamo nelle capacità del gruppo, incominciamo sto percorso col nome debutto. Street group che di rappare ha una voglia matta, e per questo lo fa sempre a spada tratta. Con carta e penna in mano liberi alla nostra mente. Non ci fotte delle cause se qualcuno ne risente. Noi siamo motivati, senza timore e spregiudicati, vogliosi di venire fuori e di risultati. Crediamo nelle capacità del gruppo, incominciamo sto percorso col nome debutto. Street group che di rappare ha una voglia matta, e per questo lo fa sempre spada tratta. Con carta e penna in mano liberi alla nostra mente. Non ci fotte delle cause se qualcuno ne risente.